Yes, people, questo è Port Royal, puntata di mercoledì 1 febbraio, puntata speciale questa di Port Royal. Un saluto innanzitutto a tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano direttamente dal sito di pirateradio.it. Un saluto a tutti gli amici che ci riascolteranno via podcast e iniziamo questa nuova puntata, una puntata speciale in cui alterneremo musica e parole e racconteremo quelli che sono i fatti che sono successi fra settimana scorsa a Torino, che riguardano un po' direttamente i cultori dei Sound System, e racconteremo quello che è successo fra ieri e avanti ieri in quel di Padova. Racconteremo questo perché Pirate Radio supporta e sostiene soprattutto tutti i compagni e tutte le compagne che in questo momento stanno subendo degli attacchi, e quindi ci sembrava giusto essere solidari e supportare. Iniziamo questa puntata quindi in maniera speciale, senza sigla ma con un mix, e poi iniziamo direttamente con le parole e i racconti. From a little island in the sun, sweet reggae music explode every wave I upon. Out of many we are one, revolutionary but we not need no gun. Welcome to the camp where the tough camp at. Real recognize, real one, that's a fact. Game still not over, no final act. Give me the microphone and me a roll like a rock. Anytime, anywhere, me a ready for that. Everyone I go a bread a watch in me back. Sweet sense, million no crap. Me a sing like no playback. I've been to Jamaica, I've been to Cali, Ibarra, Madeira, Jete, a Paris, Ciudad de Mexico, hasta Madrid, like an international. E tanto già lo sai, quello che tu prendi è sempre più di ciò che dai. Mi chiedo come fai. Noi siamo briganti e non ci fermerete mai. Suona ancora e la musica è quella di allora, mentre niente cambia per strada nel regno di questa miseria. Questa miseria brucia ancora e la fiamma ragazzi lontani dagli sguardi, come errori interni di questa società. Muoviamo i nostri passi e facciamo i nostri sbagli, ma senza mai mollare un briciolo di dignità. Roba di DNA, per non una cosa normale, con quelli come voi, noi niente a che fare. Vi scaccio con le buone o vi schiaccio con le suole, vi straccio come prove perché sono un criminale. La penna è la mia arma, la voce una mitraglia, la musica ci salva da questo male. Tocca rimanere a galla in questo mare, tenere a bada questa rabbia che intanto sale. Suona ancora e la musica è quella di allora. Bomba, scoppia la bomba e capisci chi davvero conta e chi invece no. Un'onda di note a fondo, ogni passo che non sa che non dare non si può. No, gronda, sudore, gronda, stai 8 ore al giorno all'ombra di qualche boss. Compra, compare, compra e poi neanche un cane sulla tomba del fascia wall. Nella lotta tra bene e male, da che parte vuoi stare, compare? Perché con chi non sa amare, non voglio avere niente a che fare. Abbi pazienza, ho una coscienza, una testa che pensa ma il cuore a guidare, sa dove andare. Bomba, scoppia la bomba e capisci chi davvero conta e chi invece no. Un'onda di note a fondo, ogni pezzo che non sa che non dare non si può. Gente fa. Io faccio, la gente fa, io faccio. Adesso che chiunque parla vanvera io vorrei sta zitto. Oggi che ognuno scrive il suo papiro bello fitto, il tuo privato è diventato il mio intrattenimento. Oggi che ognuno sta connesso io vorrei sta spento. Ma poi magari mezza cosa ve la dico là, scrivo sopra un foglio là, sputo dentro un micro là, incastro su sto ritmo che mi gira sopra un dito. Anche se in questo business resto l'ospite sgradito, io che ho capito già da subito, tutti timorati ma spietati sopra il pulpito, contenti di una rabbia che fa il gioco dell'impero e un mantra che ripete all'infinito che il problema è lo straniero. Faccio il mio ma qui so cazzi, clima di tensione, la pressione spinta al limite, giorno dopo giorno puzza di criptonazzi, fame di linciaggio e nostalgia di purghe, bonifiche per me, potete fini gonfi di tutta l'ignoranza di cui invece fate tronfi. Sul beat io fumo big, butto a cisco con i bonzi, un problema, ripeto, non è Salvini, è chi lo vota, stronzi. Sia, ehi. Io sul beat fumo big, butto cisco con i bonzi. Il problema è che la gente fa bla bla bla bla, la gente fa bla bla bla bla, la gente fa bla bla bla bla, io faccio la gente fa bla bla bla bla, la gente fa bla bla bla bla, la gente fa bla bla bla bla, io faccio. Ha annunciato, è inutile dire che Pirate Radio non starà zitta e buona davanti a quello che sta succedendo a tante compagne, a tanti compagni del nord. Si è partito prima dal centro sociale Zapata, poi si è arrivato ad Ascatasuna con anche il sequestro dei sound system di Madoghe Crew e Vanchiglia Sound, e anzi dopo riproporremo anche l'intervista brevissima, i 5 minuti con cui abbiamo sentito Marco di Madoche Crew. Ma ancora ieri nuovi attacchi che appunto vorremmo rilanciare semplicemente così, con il collegamento, con il comunicato di Global Project, che adesso vi vado a leggere. È un comunicato di ieri 31/1/2023. Con un grande dispiegamento di forze dell'ordine alle 6 di questa mattina, ieri per chi ci sente, è stata eseguita un'operazione disposta dalla Procura della Repubblica di Padova, a Padova, Mestre, Treviso e Schio, oltre centinaia di più di un centinaio di agenti tra carabinieri e polizia. A Padova sono state perquisite le case di 13 persone, a Mestre 5, a Treviso 3, a Schio 1, tutte abitazioni di militanti dei centri sociali del Nord-Est. Inoltre, sette attivisti sono sottoposti a misure cautelari che vanno dall'obbligo di dimora all'obbligo di firma quotidiana e soprattutto sono stati anche sequestrati telefoni e computer personali. I reati contestati sono di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali in danno da appartenente alle forze di polizia. I fatti in questione sono una presunta aggressione a una pattuglia di carabinieri di fronte al centro sociale Pedro di Padova, che salutiamo e ringraziamo ancora per il loro lavoro tutti gli attivisti e le attiviste del centro sociale Pedro di Padova. Nella serata del 5 novembre del 2022, e le cariche subite dai manifestanti durante lo sgombero di un'occupazione abitativa ADER in via Melette il 9 novembre. Quindi praticamente 5 giorni prima c'è stata una reazione a un atto violento della polizia davanti a un centro sociale e poi 4 giorni dopo uno sgombero di un'occupazione abitativa. L'ostentazione con cui è stata portata avanti l'operazione di questa mattina, a quasi 3 mesi di distanza dagli episodi contestati, è una chiara intimidazione che si inserisce in un quadro nazionale molto preoccupante, fatto di continue e pesanti limitazioni all'agibilità politica di chi in questo paese costruisce forme di opposizione sociale e rivendica diritti. A suon di leggi, decreti e provvedimenti repressivi emerge la cifra law and order con cui il governo Meloni sta affrontando la pesante crisi sociale ed economica in atto nel paese. Il comunicato integrale di Global Project lo troverete anche sul sito. Sinceramente mi fermo qua perché magari lo riprendo giusto alla fine, visto che sostanzialmente le forze dell'ordine hanno semplicemente caricato, sgomberato, perquisito e attaccato compagni e compagne, tra cui anche i nostri fratelli di Radio Sherwood, il sequestro dei mezzi a Torino, dei sound a Torino e anche dei mezzi di produzione dello spazio del centro sociale a Scatasuna, perché hanno messo i sigilli anche ai frigoriferi. È veramente una situazione preoccupante. Riprendo un attimo il comunicato di Global Project. Alla luce dei fatti descritti, da che parte sta la violenza? La violenza sta in chi perquisisce, sequestra, manganella, reprime e criminalizza. Nella mancanza di misure di welfare, nell'assenza di risposte sociali alla crisi economica, nella negazione del diritto all'abitare, nei controlli selettivi. Le lotte sociali sono l'unica risposta possibile e non si fermeranno. Potete svegliarci all'alba, perquisirci, provare a intimidirci, ma non ci fate paura perché rivendichiamo fino in fondo la voglia di immaginare e costruire ogni giorno un mondo più giusto. I veri violenti siete voi, la nostra lotta è per la vita. E su queste parole io mi fermerei, vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente come Pirate Radio saremo sempre a fianco dei compagni e delle compagne degli spazi sociali e dei compagni e delle compagne che portano avanti le radio web e indipendenti in tutta Italia. E quindi non ci avrete zitti e buoni. E adesso ci andiamo a risentire quello che diceva Marco di Madog e Crew sull'occupazione, anzi sulla perquisizione. E il sequestro del sound system di Madog e Crew e quello che è successo a Scatasuna. Questa è Port Royal tutti i mercoledì, ma questa volta non andiamo in diretta e l'unica cosa che sentirete è questa roba qua, perché c'è bisogno di parlarne e per una volta ci fermiamo e facciamo invece una puntata di approfondimento. Buonasera a tutte e a tutti, Port Royal, Pirate Radio, tutti i mercoledì dalle 21 a Vallo a Sapè stasera. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Purtroppo in questi giorni si è parlato molto del centro sociale a Scatasuna di Torino, che ieri ha subito una perquisizione all'alba e anche un sequestro dei sound. Andiamo proprio a sentire Marco di Madog Q e gli chiediamo insomma di raccontarci un po' questa storia. Innanzitutto volevo ringraziarvi dell'ospitalità e della solidarietà che in questi giorni da tutte le parti stiamo ricevendo. Cos'è successo? In pratica ieri mattina all'alba le forze dell'ordine sono venute alla Scatasuna per una perquisizione. Il tutto per il grande concerto che facemmo il 15 ottobre in solidarietà ai compagni denunciati per associazione a delinquere. All'epoca erano stati mandati dei fogli di via agli artisti che si sarebbero esibiti. Comunque la cosa si fece lo stesso e ieri si sono presentati e cosa hanno fatto? Non trovando probabilmente quello che cercavano, hanno sequestrato tutti i mezzi elettronici del centro, casse, monitor, microfoni, eccetera, e si sono portati via anche i due sound system, quello di Madog Crew e quello di Banchiglia Sound. Sono stati anche sequestrati i bar e i frigo del centro. Questo perché tanto l'Italia gode di salute a livello economico, no? Quali saranno adesso le vostre mosse, le vostre contromisure? Le azioni utili che il movimento può fare ha già fatto, si è mossa contattando gli avvocati, adesso facciamo passare questo weekend e poi da lunedì capiremo meglio il da farsi. Comunque sicuramente chiederemo il sequestro degli impianti, ecco. Con il nuovo governo si respira un po' un'aria di attacco agli spazi sociali. Com'è la situazione in questo momento per la Scatasuna e in generale per Torino? La situazione della Scatasuna non è tanto diversa per esempio dallo Zapato. In realtà la questura e la politica di destra di Torino vorrebbe sgomberare questo posto, meno male che il sindaco non ha firmato l'atto di sgombero. Siamo sotto attacco del nemico, perché non piace che ci sia gente che si esprima, non piace che ci sia gente che abbia voglia di fare. Ci vogliono muti, ci vogliono in silenzio, ci vogliono fare stare zitti, ecco. E noi zitti non ci stiamo ancora. Ricordiamo, portiamo la nostra massima solidarietà ai compagni e alle compagne di Scatasuna e agli amici di Madog Crew e Banchiglia Sound. Ringraziamo ancora Marco di Madog Crew per queste parole e appunto non staremo zitti e la musica tornerà a suonare e a pompare più forte di prima. Questa è Pira. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. Qualche tune per ricordare il nostro artista amato Dennis Brown. Many are cold, few are chosen. Many are cold. E questo lo dedichiamo a tutti i compagni, a tutte le compagne che resistono. E Port Royal tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. Are you ready to stand up and fight the right revolution? By the feathers in. Queste erano le Shun scelte per ricordare il nostro Dennis Brown, e visto che parliamo di ricordi ci avviciniamo a quello che sono i giorni dedicati a Bob Marley, e Fire Bomb Babylon ha realizzato questo mix proprio per ricordare il nostro profeta Bob. Then I'll go. Though I just dropped by to let you know that I'm leaving you. Going to be, if you don't know, Crying, one love. Hear the children crying, one heart. saying, give thanks and praise to the Lord, and I will feel all right. Saying, let's get together and feel all right. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let them help us all this dirty remarks. There is one question I'd really love to ask. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind? Just a savior's own belief. One love. What about a one? One heart. Let's get together and feel alright. As it was in the beginning. One love. So shall it be in the end. One heart. Alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Let's get together to fight this holy Armageddon. Gideon, Gideon, Gideon. So when the man comes, there will be no, no doom. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. One love, one heart. Let's get together and feel alright. I'm pleading to mankind. One love, one heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Official station. You know. Do it. There's a natural mystic flowing through the air. If you listen carefully now, you will hear. Don't tell no lie. This could be the first. lights down low and pull your window curtain. Oh, let your moon come shining in into our life again. Saying, ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl, but it seems I was never on time. Still, I wanna get through to you, girl, on time. Love. I want to give you some good, good loving. Oh, I, oh, I, oh, I. Yeah, I want to give you some good, good loving. Turn your lights down low. Never, never try to resist. Oh no, nah, nah, nah. Oh, let your love come shining in, nah, nah, nah. Into our lives again, nah, nah, nah. Saying, ooh, I love you, I love you, I love you. And I want you to know right now, know right now. Ooh, I love you. Since I met ya, I could beat depression. It's like your man don't understand, all he does is stress ya. I can see a state of misery from the introduction. Ain't about no sucking or touching, just honest discussion. Maybe we can see a better way, find a brighter day. Late night phone conversations, would that be okay? I don't wanna take up all your time, be the next in line. Tell me your size, let me find your things with you in mind. I can see you cautious and I'm careful not to scare you. The anticipation, the love making got you shaking when I'm standing there. Moves of precision will prepare you, in case you get scared. Just ask the man in the mirror, now the picture's getting clearer. All he does is hit you hard, I'm telling you to leave him. And you tell me keep my faith in God. I don't understand it, I just wanna bring you home. I wonder should I leave you alone to find a woman of my own. All the homies tell me that you don't deserve it, I contemplate. But in my heart I know you worth it, tell me can you get away? I want to give you some love. I want to give you some good, good loving. Oh I, oh I, oh I. Yeah, I want to give you some good, good loving. Could it be my destiny to be lonely and checking for these hoochies that be on me, cause they phony? With you is different, I got no need to be suspicious, cause I can tell my life with you will be delicious. The way you lick your lips and shake your hips got me addicted. I'm sitting here hoping that we can find some way to kick it. Even though I got the digits, gotta struggle to resist it. Slowly advance when it's my chance not to miss it. You blow me kisses when he ain't looking, now your heart's took it. My only wish is that you change your mind and even shook. Wanna take your hand, but you're scared to follow. Come see tomorrow, hoping I can take you through the pain and sorrow. Let you know I care, that someone's there for your struggle. Depend on me, when you have needs or this trouble. I wanna give you happiness and maybe even more. I told you before, no time to waste. We can hook up at the store. All the homies tell me that you don't deserve it, I contemplate. But in my heart, I know you worth it. Tell me, can you get away? I wanna give you some love. Turn this out to a happy home. DJ Jilt with all the homeboys that couldn't get their happy home.

Should you give me a boom drop this afternoon? Then I'm gonna get an explosion real soon. And I'll be gone for a while. Keep that perfect smile. Do your very best. And I'll be gone for a while. Keep that perfect smile. Do your very best. I'ma keep you warm. It's cold outside. Protect you from the storm, the world outside. You know I love you, baby. No need to worry about me. And I'll be gone for a while. Keep that perfect smile. Do your very best. And I'll be gone for a while. Keep that perfect. Supposed to do while you got me sitting here waiting on you, baby. Hurry, hurry, come back and give me some love in this afternoon. Cause I can't wait to see you smile. Could you stay a little while and do the things that only lovers do? Trying not to think about how I'm gonna do without your touch. Your touch, and I can't stop thinking about the loving that I'm needing now so much. And until you come back to me, there will be no cigarette smoking in my room. Ciao a tutti amici, sono Bunna di Africa Unite e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Port Royal e Fire Upon Babylon. Restate sintonizzati, seguite programmi come questo, supportate la reggae music. Yes I! Bunna se so! Wicked! Buonasera a tutti e tutte, questa era l'ultima saluto di Bunna. Vi salutiamo anche noi, ci riascoltiamo settimana prossima. Come tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. Questa è stata una puntata speciale a sostegno e a supporto dei compagni e delle compagne del Nord. Vi terremo aggiornati e sostenete e sosteniamo Pirate Radio.